4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata, ancora una volta bentornati amici dei motori al programma che Radio 24 in compagnia di Quattro Ruote realizzano da ormai 9 anni ogni sabato alle ore 21 fino alle 21.45. Due gli indirizzi e poi partiamo subito. Intanto la modalità semplice e veloce per giungere fino alla nostra redazione motori, quattroruote@radio24.it. E poi un web, il nostro, un website www.radio24.it nella sezione dei programmi. Il quarto programma è Quattro Ruote e dintorni, impossibile sbagliare, avete tutto l'archivio, alcune foto addirittura disponibili su tutti gli speciali che facciamo. Diamo il via questa serata subito con Alessio Viola da Quattro Ruote. Caro Alessio, buonasera e benvenuto. Buonasera Roberto e buonasera a tutti gli ascoltatori. Con Alessio avremo il piacere di provare la Golf GTI, la sesta edizione, la più importante dal punto di vista sportivo per Volkswagen, e poi parleremo di revisioni di bombole metano. Dopo il tragico incidente di Viareggio ci è venuto in mente di andare ad analizzare la sicurezza del GPL e del metano anche a bordo dei veicoli. Parleremo di mercato dell'auto con il professor Malagodi, di assistenza stradale con ACI e poi auto d'epoca sulle Dolomiti e una chiusura eccezionale con un pilota italiano sconosciuto in Italia che in America ha vinto tantissimo in moto. Tutto questo da questo momento per circa 40 minuti. Alessio Viola, che tipo di auto è la sesta Golf GTI? La Golf GTI sesta serie continua nella tradizione, è un esempio raro perché ne sono rimaste davvero poche di automobili che possono essere perfette sia per chi cerca sportività sia però per chi ha bisogno di un'auto normale per tutti i giorni. Insomma, si possono portare a scuola i bambini senza problemi, ma poi se ci si trova su una strada un po' divertente ci si tolgono molti sfizi, ed è questo il segreto che, come dire, da 30 anni fa sì che la Golf GTI sia la Golf GTI. Già hai detto molte cose importanti, le analizzeremo fra qualche minuto, prima però cerchiamo di conoscere questa vettura attraverso la nostra consueta scheda introduttiva. La Golf GTI si riconosce a prima vista grazie ai cerchi da 17 pollici con le pinze dei freni rosse, grazie ai gruppi ottici posteriori più scuri, alle impunture rosse su volante e cambio e persino al sound del motore, sottolineato da un particolare impianto di scarico. Quel che è davvero interessante in questa sesta GTI è però l'alto contenuto tecnologico, con sistemi che aiutano a gestire al meglio i suoi 210 cavalli. Non ne sono rimaste tante di Gran Turismo capaci di mettere d'accordo famiglia e passione. Dopo oltre 3 decenni, la GTI ci riesce ancora, quasi come il primo giorno. Nome: Volkswagen Golf GTI 5 porte. Carrozzeria: berlina 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,21 m, larghezza 1,70 m. Peso: 1339 kg. Motore: anteriore trasversale 4 cilindri. Potenza: 210 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio elettro attuato a 6 marce. Prezzo: 27.721 euro. Partiamo da quest'ultimo dato, Alessio. Intanto 27.721 euro, che prezzo è anche rispetto ai competitor? Mi viene in mente l'Alfa Romeo, mi viene in mente la Mazda, mi vengono in mente altre vetture. Guarda, non c'è che dire, è un prezzo assolutamente interessante, che in un certo senso smentisce un po' anche la fama della Golf come auto costosa. Per carità, sono sempre belle cifre, però con 27.000 euro si portano a casa 210 cavalli, un gran bel telaio e poi, aggiungendo 1.800 euro, anche un cambio a doppia frizione che rimane comunque un bel oggetto. Certo, bisogna stare attenti con gli optional, perché se si comincia con i sedili sportivi, i sedili di pelle, il navigatore e chi più ne ha più ne metta, si possono raggiungere cifre ben diverse. Decisamente, anche su ogni auto cerchiamo sempre di capire quale sia il prezzo di partenza diciamo imposto dal costruttore, poi concessionario e tutto il valzer degli optional. Spesso poi vengono, tu lo sai Alessio, proposti al cliente dei pacchetti che quasi lo vincolano, no? A delle scelte, ossia la possibilità di scegliere una vettura per esempio in concessionaria con uno sconto molto alto. Certo, l'optional non conta, a livello di usato in realtà conta, perché poi nella scelta di un usato una persona che deve acquistare la nostra auto fra 2 o 3 anni può scegliere la nostra o quella di un altro anche a seconda dell'optional, vero? Sì, direi che nel caso della Golf GTI tutto quello che serve davvero c'è già, si tratta comunque di un'auto di elevata categoria nel suo segmento, quindi non manca nulla di ciò che deve esserci. Naturalmente, visto che è un'auto che si rivolge a un pubblico di appassionati, ripeto, ad esempio il cambio elettroattuato è un qualche cosa che non mi farei sfuggire, la guida diventa più gradevole e probabilmente anche sull'usato saranno in molti a cercarla proprio con questo accessorio. Pensa che cosa avrebbero detto i primi possessori delle prime Golf GT, ti ricordi? Erano sportivoni che con un prezzo non troppo elevato riuscivano a portarsi a casa davvero un'auto da maschietti, la chiamava qualcheduno, se gli avessimo parlato di un cambio elettroattuato, incredibile. Parliamo di peso e di potenza. Sapete che da 3 settimane, quando proviamo un'auto, parliamo anche del rapporto peso-potenza, che a mio personale avviso è una delle prime cose che bisogna guardare di un'auto, specie di auto come queste. Pesa 1339 kg, quindi 1350 kg per intenderci questa vettura, e il motore eroga la potenza di 210 cavalli. Lasciando stare il peso del pilota, che è troppo relativo al tipo di persona in questi casi, abbiamo un rapporto di 6,39 kg portati a spasso da ogni singolo cavallo. Ogni cavallo spinge 6,4 kg. È un ottimo rapporto, Alessio, già questo. Diciamo che con 6,5 cavalli, chili per ogni cavallo, si comincia già a divertirsi, e infatti i numeri, lo 0-100 per esempio di sotto i 7 secondi e via dicendo, sono una conferma di questo. La Golf è un'auto veloce e scattante e che, insomma, ripeto, insieme al telaio sicuramente possono essere la soluzione per chi cerca un'auto brillante. Molto bene, adesso sentiamo la pagella, che presenta due sorprese, due 5 stelle, però anche un 3 stelle e un 3 stelle e mezzo. Quindi andremo ad analizzare con Alessio, salutandoci, i pregi e i difetti di questa Golf GTI. Posto di guida, non c'è molto da dire. Coi sedili sportivi e le regolazioni elettriche è davvero perfetto. 5 stelle. Finiture, ben fatta come sempre. Anche a essere pignoli è davvero difficile trovare qualcosa fuori posto. 5 stelle. Comfort, la morbidezza è un'altra cosa, ma su un'auto del genere non ci si attende molto di diverso. 3 stelle e mezzo. Su strada, sicura, non ti coglie di sorpresa proprio mai. Manca, al limite, un po' di emozione. 4 stelle e mezzo. Freni. Un'auto del genere avrebbe meritato un impianto più incisivo, un po' lunga su asfalto ghiaccio. 3 stelle. Consumi. Appena superiori a quelli della GTI precedente, un serbatoio più grande non avrebbe guastato. 4 stelle. Allora, questa era la pagella, analizziamo allora per le due eccellenze. Abbiamo già detto, mi concentrerei, prima di salutarci Alessio, sul comfort 3 stelle e mezzo e freni 3 stelle. Sì, allora vogliamo parlare, come dire, di ciò che tutto sommato va bene, ma potrebbe andare meglio. Nel caso del comfort, le 3 stelle e mezzo, visto il tipo di macchina, sono già quasi un complimento. La Golf, anche con i cerchi da 17, che sono i più piccoli nel caso del nostro esemplare, si comporta bene, però in assoluto di certo non può essere considerata un'automobile confortevole nel vero senso della parola, e quindi 3 e mezzo perché comunque rimane una Golf. Ecco, considerando il, come dire, un confronto rispetto a una Golf 1400 TSI, cioè quella che poi tutti comprano, è un pochino meno confortevole, diciamo perde una stella. Chiudiamo allora con i freni, Alessio. Sì, per i freni invece le 3 stelle non devono spaventare, nel senso, esistono le 5 stelle, d'accordo. Nel caso della Golf, la frenata su fondi tradizionali, cioè la frenata classica su asfalto asciutto, è stata nella norma. Ciò che invece ci è piaciuto meno è stata la frenata in condizioni difficili, perché noi proviamo anche a fare una frenata con 2 ruote su asfalto bagnato e 2 su marmo che simula l'aderenza del ghiaccio. In quel caso la Golf è andata un pochino lunga e questo naturalmente ha pesato sulla votazione finale. Nelle condizioni normali, però, che poi sono quelle che più si parano di fronte quando si va per strada, non chiaro. C'è nessun problema, ecco, non ci si deve... Molto bene, molto bene. Grazie Alessio Viola da 4 ruote per questa prova Golf GT, che ritrovate sul sito radio24.it, e buona serata Alessio. Buona serata anche a voi. Rimaniamo naturalmente in campo automobilistico, intendo su 4 ruote, prima di chiudere con le 2 ruote questa puntata poi più tardi, perché parliamo di mercato. Sono usciti i dati del mercato delle auto nuove immatricolate nel mese di giugno. Ci sono finalmente delle buone notizie dopo tanti mesi di tunnel lungo e oscuro. Vero, professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore? Buonasera. Assolutamente sì, Roberto. Questa volta il numero è rotondo. non solo nel volume complessivo, perché supera abbondantemente le 200.000, sfioriamo le 210.000, 209.315 per esattezza, ma anche la variazione riferita nel confronto a un giugno dell'anno scorso che espresse poco più di 186.000 unità in una fase, gli ascoltatori ricorderanno, di mercato che già nella seconda parte del 2008, già a cavallo di giugno, cominciò a denunciare dei segni di stanchezza della domanda. Beh, l'anno scorso il mercato immatricolò 186.000 unità, il che, confronto di quest'anno con quello dell'anno scorso, fa un bel più 12,4%. Erano molti, molti mesi, un anno e mezzo quasi, che non avevamo una variazione del mercato in positivo a due cifre. Questa volta c'è. Addirittura a due cifre, davvero. Allora, un po' di analisi già l'abbiamo fatta, cerchiamo di capire che cosa compiutamente ha portato a questo risultato, iniziando dal gruppo Fiat. Come si è comportata Fiat? Fiat va splendidamente perché è il gruppo che meglio è attrezzato con la marca Fiat e quella Lancia per questo fenomeno delle immatricolazioni di GPL e metano, che in questo mese, essendo arrivata in rete una disponibilità di prodotto che i clienti avevano ordinato da febbraio in poi, grazie agli ecoincentivi, in particolare per le versioni a basso impatto ambientale, determina una quota del mercato totale italiano nel mese di giugno del GPL che sfiora il 16%. Tenendo conto che l'anno scorso era del 3,5%, quindi sono 5 volte tanto, e il metano fa anche la sua parte, arriva a quasi il 6%, mentre l'anno scorso era al 3,3%, quindi è quasi raddoppiato. Ecco, questa quota metano più GPL da sola rappresenta un buon 22% del mercato. Fiat primeggia in queste diciamo due alimentazioni con Punto e Panda e Bravo nel GPL, anche se lì in mezzo si inserisce Chevrolet Matiz, e ancora di più nel metano con Panda e Punto, ed ecco che la marca Fiat porta a casa un buon 26,3%. Aggiunto questo a un quasi 5% di Lancia e a un onesto quasi 2,7% di Alfa, che non ha il GPL e quindi fa i volumi essenzialmente con la Mito, ma non si basa sul GPL, il gruppo Fiat ha una quota che è del 34%, il che è un bel volume, supera largamente un terzo del mercato, che era l'obiettivo di Fiat in questo 2009, e stanno andando anche oltre. Market share veramente importante. Chissà chi si ricorda, professore, un anno e mezzo fa, proprio in tempi non sospetti, quando si sentiva ormai serpeggiare il successo di GPL soprattutto, e anche di metano, parlavamo dell'esplosione di questo fenomeno, anche e non solo, certo, ma anche dovuto a una questione economica. Quindi la benzina era altissima, il GPL fu spinto tantissimo da questa crisi, ora un pochino meno, tanto che si parla di rallentamento, tant'è che il mercato invece risponde in maniera più che positiva. Da questo tipo di riflessione volevo partire per sapere, secondo lei, che cosa succederà nel secondo semestre, affrontando un caldo luglio, un agosto come sempre mozzato da tanti giorni di ferie e concessionari chiusi, e poi un autunno che si preannuncia caldo anche. Beh, lei ha detto giusto, perché la verifica l'avremo a settembre, in quanto luglio e agosto vanno da sé con una scorta di ordini che abbiamo anche questo mese. La raccolta ordini è stata positiva rispetto al giugno dell'anno scorso, di un più 9%, abbiamo superato le 180.000 unità quando erano state solo neanche 165.000. Questo significa che abbiamo già i volumi per luglio e per agosto. Il problema è di vedere come riparte la domanda a settembre. Se i segnali della crisi economica si saranno accentuati o ridotti, da lì dipenderà la spinta all'acquisto dell'automobile. Io ritengo che un qualche rallentamento della tensione sul piano della recessione economica a settembre ci possa essere, e che comunque la quota di incentivi, che ancora sono validi sino a tutto l'anno, determinerà una domanda da settembre a fine anno che, mia opinione, dovrebbe portare o potrebbe portare questo secondo semestre a livelli non troppo distanti, vedremo poi mese su mese i confronti più o meno, di quello che successe l'anno scorso, quando il secondo semestre chiuse a neanche 900.000 unità. Sì, sì. se consideriamo che questo secondo semestre chiuda ad esempio con meno 4%, 860.000 unità, sommando queste al 1.130.000 quasi messo già da parte in questo semestre che si chiude con un brillante giugno, sfioriamo i 2 milioni di unità, 1.990.000, il che non sarebbe un risultato che preoccupa più di tanto, tenendo conto che gli incentivi hanno davvero raddrizzato l'andamento del mercato italiano. Da quel febbraio 2009. Molto bene. Professore, monitoreremo, ci sentiremo ancora prima della pausa estiva, magari fra metà luglio e fine luglio, per cercare di capire se ci sono notizie intanto sull'ambito europeo e poi anche qualche indiscrezione sui contatti che lei ha con molti concessionari. Grazie a Paolo Malagodi, analista del Sole 24 Ore. Buona serata. A disposizione, a presto, risentirci. A proposito di GPL e metano, qui il contatto è facile col tragico incidente purtroppo di Viareggio, in cui le auto una volta tanto non c'entrano, però in realtà c'entrano anch'esse. Molti lettori di Quattro Ruote, molti ascoltatori ci hanno rivolto la domanda: ma il GPL e il metano sono pericolosi a bordo delle nostre vetture? Questa è un'annosa questione, c'è chi giura che dal 2001 in poi le auto non possono più esplodere. Abbiamo deciso di chiederlo a Cosimo Murianni. Buonasera Cosimo. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. So che ve ne siete proprio occupati, c'è un video anche tratto da YouTube sul vostro sito quattroruote.it che fa vedere una Peugeot 106 fatta bruciare con impianto GPL, non esplode in realtà, brucia come tutte le altre auto. Tu confermi? Sì, perché in sostanza le valvole di sicurezza introdotte a partire dal 2001, che sono ben tre, impediscono l'aumento di pressione all'interno del serbatoio e per cui viene scongiurato il pericolo di esplosione. Cosimo, c'è differenza in questo, almeno a macro riflessione, fra GPL e metano? La differenza consiste essenzialmente nello stoccaggio del carburante, perché il GPL è nel serbatoio in forma liquida, mentre il metano è in forma gassosa. E sono differenti anche le pressioni. Il GPL viene inserito nel serbatoio a circa 8 bar di pressione massimo, sì, mentre il metano arriva a 200 bar di pressione. Però c'è da dire che le bombole del metano sono molto molto molto robuste e soprattutto veramente difficili insomma da scalfire, ecco. Decisamente. Senti, che cosa rispondete ai vostri ascoltatori sulla sicurezza degli impianti, sulla manutenzione per esempio delle bombole o dell'impianto stesso GPL che va sostituito ogni tot anni? La bombola dell'impianto GPL va sostituita ogni 10 anni. Non vengono fatte dei controlli in anni precedenti, semplicemente ogni 10 anni si sostituisce completamente il serbatoio. Invece, per quanto riguarda il metano, le bombole del metano vengono sottoposte a una revisione ogni 4 anni. La revisione delle bombole del metano è un po' laboriosa, nel senso che vengono smontate dall'autovettura e vengono inviate ad appositi centri. In Italia ne esistono due principali, che sono a Iesi in provincia di Ancona e a San Lazzaro in provincia di Bologna. In questi centri dove le bombole vengono sottoposte a un attento controllo e a una prova idraulica di pressione, se superano, sì, il test vengono rimesse in circolo e quindi possono tornare a equipaggiare un'automobile. La revisione, ripeto, delle bombole a metano va fatta ogni 4 anni e ovviamente se l'autovettura è stata acquistata nuova all'origine con la doppia alimentazione benzina e metano, la prima revisione delle bombole di metano coincide con la prima revisione dell'automobile. Decisamente. Così come noi la conosciamo. Come voi la conoscete. Cambierà qualche cosa secondo te in futuro per chiudere, oppure questi sono limiti di sicurezza già decisamente prudenti per una società che si basa poi fondamentalmente su auto al carburante, ma ormai hanno il 6, 8, 10% e oltre di quota con GPL, poi c'è il metano e tant'altro? No, per quanto riguarda il metano e il GPL, il quasi irrisorio numero di incidenti registrati negli ultimi anni, che veramente si possono, negli ultimi 20-25 anni, si possono contare sulle dita di una mano, dimostrano come in realtà questi impianti installati a bordo delle autovetture siano molto, molto sicuri. Ecco. A maggior ragione per quanto riguarda il metano, il fatto che ogni 4 anni le bombole delle automobili vengano sottoposte a una revisione così profonda, con addirittura lo smontaggio e una prova idraulica, innalza enormemente il livello di sicurezza e scongiura qualsiasi malfunzionamento. Quindi mi sento di dire che il livello di sicurezza attualmente che abbiamo attualmente in Italia è molto alto, decisamente superiore a quello di altri paesi europei come la Germania, dove le revisioni delle bombole del metano vengono fatte in maniera molto più superficiale, senza una prova reale, senza lo smontaggio e la prova di pressione. Va bene, va bene. Grazie per ora Cosimo Murianni, maggiori informazioni su quattroruote.it, compresi i video. A presto Cosimo e buona serata. Buona serata Roberto e a tutti gli ascoltatori. Cambiamo adesso argomento e riprendiamo l'inchiesta sull'assistenza stradale. Seconda e ultima puntata, abbiamo sentito Europa Assistance sabato scorso, questa sera tocca ad ACI, sono i due operatori che si spartiscono fortemente, diciamo in maniera ormai globale, il mercato italiano perlomeno. Allora, per ACI Global il direttore ci fa compagnia, Pierluigi Leone. Buonasera direttore. Buonasera a tutti. Ci fa capire intanto qual è esattamente la strategia di ACI per quanto riguarda la sicurezza stradale in termini di assistenza, tenendo conto che molti stanno per partire per le vacanze, direttore. Sì, beh, intanto diciamo che ACI Global è il braccio operativo, la società di servizi dell'Automobile Club che da sempre è vicina agli automobilisti. Forse è meglio conosciuta come il soccorso ACI 116, che è il primo numero storico telefonico di riferimento che poi è stato convertito in questo numero verde che è 803 116, che può essere chiamato, che rappresenta un po' il punto di riferimento nel momento in cui si ha bisogno di soccorso stradale. Nel tempo noi dell'ACI, di ACI Global, abbiamo mantenuto abbiamo cercato di mantenere intatta la riconoscibilità, la leadership del segmento dell'assistenza stradale, ma abbiamo maturato ormai una grande esperienza che abbiamo cercato di elaborare innovandoci giorno dopo giorno. Ecco, in questo momento ad usufruire dei servizi di ACI Global sono prima di tutto i nostri soci ACI, sono più di 1 milione che trovano nell'appartenenza a questo speciale club un elemento distintivo, un elemento unico che dà loro accesso a tutto un insieme di servizi, quali il soccorso stradale, che è la base del nostro servizio, non solo legato ad una specifica targa, ma anche alla persona intestataria della specifica tessera, e dà diritto all'auto sostitutiva, dà diritto al trasporto dell'auto riparata a casa, dà diritto ai servizi accessori quali albergo, taxi, pulizia del serbatoio per errato carburante, per poi passare anche a dei servizi forse meno conosciuti, quali per esempio quelli dell'autority di carrozzeria, dell'autority meccanica, che danno l'opportunità ai soci ACI, sempre chiamando l'803-116, questo numero magico, di avere dei preventivi gratuiti e delle riparazioni di qualità a tariffe controllate e garantite. Per quanto riguarda questo servizio, direttore, che cosa un automobilista deve fare? Iscriversi a un'associazione, iscriversi all'ACI, e quanto costa? Così diamo tutte le informazioni necessarie. Quanto dura e quanti recuperi fate, compresi nel prezzo? Limitati. Il costo, vi sono diversi tipi di tessere, ma diciamo la tessera base, la tessera quella più utilizzata è quella la cosiddetta ACI Sistema, che costa meno di 70 euro. Per dare un'indicazione, 70 euro su base annuale? Su base annuale. Quattro ruote e dintorni. Siamo ancora in compagnia del direttore generale di ACI Global, Pierluigi Leone. Direttore, ultimo argomento, depannage. Che cos'è, come funziona e come ACI lo interpreta? Ma guardi, noi abbiamo sempre dedicato, noi come ACI, una grande attenzione al servizio di officina mobile, cioè alla possibilità di recuperare il danno dell'auto immediatamente, senza l'utilizzo del carro attrezzi. Lei immagina che già nel 1955 ACI partì con un furgoncino di tipo Isetta, quelle piccole macchine sì, che si aprivano dall'alto. Adesso abbiamo delle nuove macchine, forse prime e uniche in Italia, che sono delle macchine ribassate che possono entrare anche nei silos, nei garage, e che hanno al loro interno tanta tecnologia che permette di individuare immediatamente il guasto e riesce a risolvere il problema, risolvere il danno, quindi depannare la macchina, cioè toglierla dalle panne in tempi brevissimi. Questo almeno per il 50% delle chiamate. Almeno per il 50%, questa è la statistica che fotocopia più o meno quanto ci è stato detto anche da Europa Assistanza sabato scorso, e devo dire che, essendo voi due leader, la statistica assume una certa validità statistica, decisamente. Un'ultima cosa, voi vi occupate anche di collaborazioni con case automobilistiche, brevemente per farci capire le dimensioni anche del vostro servizio. Direttore, ci salutiamo. Momento abbiamo contratti con più del 65% delle case auto e le immagini che in questo momento noi in quest'anno prevediamo di fare circa 800.000 interventi, quindi con una rete capillare che ha più di 800 officine diffuse su tutto il territorio nazionale, che hanno più di 2.500 carri attrezzi pronti per tutti i nostri clienti. Ecco, anche per far capire le dimensioni e le potenzialità. Grazie davvero a Pierluigi Leone, direttore generale di ACI Global. Buona serata, direttore, grazie. Buonasera a tutti, grazie. E adesso la chiusura, la chicca che vi avevo promesso. Togliamo due ruote, rimaniamo sulla moto, ma in realtà non fino in fondo. Vi presento Alex Pignone. Potrebbe essere il primo italiano a tornare in Formula Indy dopo il terribile incidente ad Alex Zanardi. Si chiama Alex anche lui, ma Pignone, buona serata Alex. Buonasera Roberto, è un piacere essere con voi. È un piacere nostro. Di solito noi diamo sempre alla fine un indirizzo dove trovare la persona che ha parlato con noi. In questo caso lo do all'inizio. alexpignone.com, Pignone scritto GN, questo per dare subito un riferimento. Ci sono foto, ci sono video, ci sono le notizie. Chi è Alex Pignone? È un quarantenne che dal suo curriculum sembra averne 60, quante cose ne ha fatto, ma in realtà eroicamente, atleticamente sembra averne 20, perché salti dalla moto alla macchina con una disinvoltura notevole. Spieghiamoci bene, quando nasce il tuo amore per i motori, visto che questo è un programma di motori, e che tipi di risultati hai raggiunto su due ruote? Poi arriveremo alle quattro ruote, Alex. Sì, allora io ho iniziato a correre nel motocross a 13 anni, nei campionati prima provinciali, poi regionali, interregionali, sino alla classe 500 nella Coppa Europa. Poi sono passato alla velocità nella classe Sport Production per un solo anno, dalla 250 Grand Prix fra i senior, e nella Superbike nei primi anni 90, nel 92. Ecco, cercando di essere oggettivo ovviamente, parlaci delle tue prestazioni, cioè che tipo di risultati avevi raggiunto, quali difficoltà avevi incontrato a livello di budget e di sponsor o anche di competitor con cui ti sei trovato a contatto? Ma guarda, fino che ho corso in Italia, a parte qualche podio, non ho avuto grandi risultati, perché mi autofinanziavo lavorando tutta la settimana e per arrivare a correre nel weekend. Tra l'altro un piccolo aneddoto, che cosa facevi di lavoro per mantenerti le corse? Io lavoravo in porto a Genova su una piattaforma petrolifera. Incredibile. E poi invece hai deciso di investire all'estero, lì però hai dovuto trovare quello che molti piloti, oggi tu lo sai, è la difficoltà di oggi, cercano, e cioè uno sponsor. Guarda, più che uno sponsor è stato un salto molto, molto importante che ho voluto fare verso il sogno americano. Nei primi anni 2000 il sogno americano era molto, molto visibile. Quindi sono andato a Daytona per i primi test del 2001 e ho avuto un contratto col Team Scott della Louisiana e ho potuto correre per 3 anni nei campionati West Coast e East Coast Superbike americani. Beh, già questi sono risultati notevoli. Che cosa è avvenuto poi dal 2001 in poi? Dal 2001 in poi sono fatto il professionista a tempo pieno negli Stati Uniti, conquistando un terzo posto a Las Vegas, pole position a Laguna Seca. Insomma, diciamo che in America ho fatto una carriera che a me è piaciuta molto, ecco, dai, certo, diciamola così. In realtà io so che è piaciuta molto anche al pubblico, ti apprezzava perché non badavi a molte precauzioni sui pericoli, specie nei passaggi più difficili sugli ovali o su Laguna Seca, è vero? È vero, anche perché a volte dimenticavo, cioè non confondevo ancora il mio passato nel motocross con quello alla Superbike. Avevo una guida un po' sporca che agli americani piaceva molto. Ricordiamolo, eri in pista, eri un pilota professionista con tutte le protezioni del caso, e da qui il solito, consueto ma importantissimo consiglio di andare in pista a divertirsi e non per strada, ovviamente. Poi hai avuto, un incidente molto grave che ti ha fatto un po' cambiare prospettiva. Sì, nel 2003, in vista della 200 miglia di Daytona, due settimane prima facevamo dei test privati e ho avuto un incidente, diciamo, nella curva 4. Per chi conosce Daytona, è proprio nel punto più veloce nella parte ovale. Sì. E ho avuto un incidente a 270 all'ora contro il muro, perché in America gli spazi di fuga sono quelli. Ahia. E che cosa è successo? Niente, è successo che ho dovuto dormire per 16 giorni in coma, e quando mi sono svegliato avevo gravi emorragie interne, fratture, diciamo tutto quello che è servito per farmi sospendere, anzi interrompere definitivamente la mia carriera di pilota di Superbike americana. Ecco, e molti certo piangendo lacrime amare avrebbero abbandonato qualsiasi idea di motori, tant'è che invece nel tuo caso la passione era così forte per la velocità, per la pista, per i motori, che ti ha portato a considerare un altro progetto, un'altra sfida, quella che si chiama Challenge in America, no? Ed è quella di affrontare le quattro ruote. Che tipo di rapporto avevi con le quattro ruote e che tipo di rapporto hai oggi? Guarda, non avevo nessuno, e che la forza che ho avuto per decidere di passare dalla Superbike alla IndyCar è stata la voglia di vivere, cioè di avere un obiettivo per rimettersi in piedi dopo questo incidente. È una grande sfida, ne ho già conquistato una bella fetta, perché ho passato il rookie test e quindi ho una licenza da pilota professionista Indy Racing League, e spero di arrivare step by step a quello che è la gara più famosa del mondo, che è la 500 miglia di Indianapolis. Insomma, famosissima, forse una delle due gare più famose in tutto il mondo dei motori. Senti, perché non passare attraverso delle altre gavette su quattro ruote e puntare subito su Indianapolis, che da una parte reagisce direttamente con la tua ambizione e dall'altra rischia di bruciarti? Secondo me bisogna conoscere molto bene quello che sono i propri limiti, e tutto quello che può essere gavetta vuol dire correre in macchina su piste tradizionali. Sì. E quindi vuole dire adattare uno stile di guida di anni e anni di motociclismo a quello che è completamente diverso, che è nell'automobilismo. Io, come hai detto all'inizio, non sono più giovanissimo e penso che non avrei il tempo e forse neanche la voglia di dover fare una lunga gavetta, e quindi voglio tutto subito. Comprensibile per chi ha già in realtà corso tanto, iniziando fin da quando aveva pochi anni. Senti Alex, che cosa vuol dire passare dalle due ruote alle quattro ruote in serie così competitive, anche dal punto di vista atletico, fisico e dinamico? Diciamo che lavorano muscoli completamente diversi in una monoposto, a differenza di una superbike, e poi diciamo che anche dopo il mio incidente la preparazione fisica non è stata così semplice. Però adesso mi sento molto pronto, e l'ho dimostrato in Kentucky col team di Eddie Cheever, passando il rookie test alla prima giornata, quando molti devono insistere. Tra l'altro Cheever, nome noto agli amanti della Formula 1, è un po' diventato tuo amico, cioè ti ha aiutato, in qualche modo ti ha seguito, vero? Sì, adesso Cheever è un amico, un manager, un fratello, è tutto, cioè quello che mi tiene per mano per questa avventura. Lui è Sandro Munari. E Sandro Munari, che consigli ti hanno dato per Indianapolis? Giocartela tutta, giocartela bene, ma come affrontare questa attesa? Quando potrebbe essere intanto Indianapolis? Indianapolis è nel mese di maggio del 2010. Sì. Noi vogliamo essere in pista già a ottobre di quest'anno, con dei test in Indy Light, che diciamo è un po' la GP2 della Formula Indy, e quindi fare molti step di sedute in pista, sempre in ovale, io farò solo ovale, debuttare nella prima gara di campionato di Indy Light nel 2010, da lì cominciare i test in IndyCar. Certo, vedo che hai le idee chiare ed è giusto che sia così. Vuoi spiegare agli amanti di Formula 1, la grande nemica dell'IndyCar, italiani? No. Ma in realtà non è vero, infatti c'è un fascino in entrambe, ma ti chiedo di spiegare il fascino all'interno dell'ovale, lì dove lo spieghi a gente abituata a vedere chicane, frenate, accelerazioni, circuiti cittadini addirittura, che quanto di più lontano esista probabilmente dall'ovale. Perché l'ovale piace in realtà così tanto in America e un po' meno qua, Alex? Guarda, l'ovale rispecchia proprio quella che è la mentalità un po' in tutti gli sport del pubblico americano nei confronti del pubblico europeo. Cioè, forse il pubblico europeo è più fine, più tecnologico. In America però vedono ancora i piloti come gladiatori. In effetti poi c'è anche molto rischio nelle piste ovali, perché comunque ad Indianapolis si gira in 33 a 360 di media con delle punte di 400 all'ora, e quindi loro comunque vogliono il rischio. Questo è un po' la grande differenza fra il pubblico della Formula 1 e quello della Formula Indy. Tanto che i piloti di Indy sono famosissimi in America, vero? Sì, i piloti di Indy sono delle star a tutti gli effetti, e la differenza proprio per questo amore che hanno gli americani per il rischio, che tutti e 33 sono star, mentre invece qui diciamo che chi non è più che appassionato dal decimo in poi forse non sa neanche il nome. Certo, Alex, se in Formula 1 si dice che il mezzo e tutta la tecnologia che si porta dietro ormai conti più dell'80%, 85% sul pilota, che cosa mi dici della Indy e delle monoposto americane? Quanto conta il pilota e quanto la tecnologia e l'auto? Guarda, io penso che il pilota conta ancora un buon 70% negli addirittura? Stati Uniti. Addirittura? Sì. Sì, e anche perché si corre comunque con macchine che sono praticamente, diciamo, tutte uguali, telai Dallara e motori Honda. Che fa la differenza è la preparazione del team, dei meccanici, degli ingegneri nei pit stop e nella strategia di gara. Bene, hai trovato degli sponsor, andrai in cerca anche di quelli per Indy? Guarda, io ho deciso, cioè quando si ha un grande obiettivo come questo, che qualcuno definisce impossibile e quindi è ancora più bella la sfida, io mi sono circondato di uno staff di prim'ordine e quindi Adriano Narducci è il mio marketing manager, Alex D'Agosta, che è già addetto stampa di Mascalzone Latino nella Coppa America di Vela, è il mio addetto stampa, Jason Peters, uno dei migliori marketing manager americani della Indy Racing League, lavora a tempo pieno per me, e i miei personal manager, l'hai detto prima, non è che hanno bisogno di presentazioni. Insomma, Sandro Mulari e di Tiver. Sei in buona compagnia, mi sembra. Allora, sì, Alex, credo si vince tutti insieme. È chiaro, la forza del team nei motori è particolarmente valida come legge. Alex, l'augurio intanto è quello di trascorrere un'ottima estate in vista di preparazione e una preparazione tecnica e fisica che deve essere per forza eccellente. Se avrai piacere, se i nostri ascoltatori avranno piacere, la promessa è quella di risentirti magari a tappe in avvicinamento a Indy. Per chiudere, ricorda il tuo libro che mi ha colpito per il titolo in sé, perché è molto simpatico, e così sì, poi ci salutiamo. La prendimi la scia, racconta un po' tutta questa mia storia un po' strana, parla poco di corse e parla molto di vita. Buona questa chiosa. Grazie Alex Pignone, alexpignone.com, per essere stato con noi. Buona serata e in bocca al lupo. Ciao, crepi il lupo, buona serata a voi. Allora, grazie davvero ad Alex Pignone. Io mi auguro vi siate divertiti in questa puntata, che ritrovate poi su radio24.it da lunedì. Noi invece ci riascolteremo insieme sabato prossimo alle ore 21, come sempre dopo il GR. Giacomo è rimasto in regia, Roberto Rasia al microfono. Vi auguro un buon weekend e soprattutto una buona guida.